Ecostralis Sibeco vi ricorda l'appuntamento con Uomini e Camion su Radio 1. A tra poco. Ore 23. Uliveto ti aiuta a digerire, Rocchetta ti depura. Uliveto e Rocchetta, acque della salute. Rai GR1. Buonasera, in studio Arianna Di Giorgio. In primo piano lo scandalo dei fondi del PDL della Regione Lazio. Ammonta a 20 milioni di euro il risparmio previsto dal piano di tagli approvato in serata dal Consiglio regionale.